Italia in controluce. Eccoci proiettati tra le storie di cronaca, quelle che giungono dalle nostre città, i nostri paesi, città e paesi, i luoghi italiani visitati ogni giorno dai microfoni di Italia in controluce. La prima storia viene da Genova ed è una storia di stalking. Ossessione e persecuzione, stalking si dice in inglese. In Italia è un reato dal febbraio dell'anno scorso. La legge ha colmato un vuoto normativo che si trascinava da decenni ed è parere unanime, questa legge funziona. I cosiddetti atti persecutori sono puniti con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e sono previste aggravanti quando la vittima versa in condizioni particolari. È un minorenne, una donna in stato di gravidanza e un disabile. Per spiegare come in Italia la legge contro lo stalking viene applicata, un funzionario di polizia gira il mondo su mandato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È il vicequestore Alessandra Bucci, in forza alla squadra mobile di Genova. Recentemente è stata invitata all'ONU per dibattere di stalking e violenza sulle donne. Per stalking si intende un insieme di condotte vessatorie, persecutorie, eterogenee, sotto forma di molestie e minacce reiterate nel tempo. La reiterazione è anzi uno degli elementi che contraddistinguono il reato di atti persecutori, condotte che determinano in chi le subisce un perdurante stato di ansia, di timore, paura per la propria incolumità e per quella dei prossimi congiunti. È interessante sottolineare che in questa tipologia di stalker c'è un'alternanza di fasi, c'è la fase della disperazione, no? Che si può condensare nella frase senza di te non posso vivere, che è molto spesso utilizzata negli sms che vengono mandati a ritmi frequentissimi, cioè anche 100 sms al giorno, alla fase in cui la disperazione, cioè del passo all'aggressività, per cui si arriva insomma a scrivere o a dire per telefono senza di me tu non puoi vivere o con me o con nessun altro. Il dato dolente è che nel 70% dei casi di omicidio tra ex vi erano stati dei pregressi episodi di stalking. Nei primi 7 mesi dall'entrata in vigore della legge, le denunce sono state 4.124, 723 le persone finite in carcere. Non sempre le vittime sono le donne. Circa il 20% delle denunce per stalking sono state presentate da uomini, ma si parla di atti persecutori anche quando di mezzo non ci sono ex coniugi o spasimanti respinti. L'obiettivo di questa tipologia di stalker è quello di danneggiare la vittima, cioè di procurare dei problemi alla vittima e soprattutto di farla vivere in un persistente stato di paura. Ed è il caso del paziente che perseguita il medico nella convinzione che il medico abbia per esempio sbagliato una diagnosi, o del dipendente che perseguita il datore di lavoro che l'ha licenziato. Denunciare per esempio l'ex marito comporta spesso scrupoli, paure ulteriori, un senso di smarrimento e di sconfitta. E allora la legge presuppone che prima della querela la vittima possa rivolgersi all'autorità di polizia. Che succede in pratica? Che prima della proposizione della querela, perché il reato è procedibile a querela e la querela è il termine per la proposizione della querela non a caso è di 6 mesi, proprio per, invece dei 3 canonici, proprio per dare il giusto tempo alla persona che si ritiene vittima di stalking di decidere serenamente, dopo un'attenta ponderazione, se denunciare o meno quello che magari è stato suo marito, il suo fidanzato, il suo compagno di una vita. Prima della proposizione della querela, però, chiunque può chiedere al questore l'ammonimento. Sostanzialmente il provvedimento di ammonimento è una misura amministrativa di tutela per i soggetti che versano in queste situazioni, che però non produce l'instaurazione di un procedimento penale, quindi è sicuramente più soft, no, rispetto alla querela. Italia in controluce. Complice la crisi, modelli di consumo attenti all'ambiente e al portafoglio, è tornato alla ribalta il baratto, che con gli swap party è diventato un grande fenomeno di costume. Il racconto di Maria Luisa Pezzali. Io swappo, tu swappi, egli swappa, voce del verbo swappare, tradotto scambiare, barattare. Nel libro economico del 2009, voce del capitolo Quello che di buono ha portato la crisi. Sì, perché complici le istanze antispreco del consumo responsabile, il baratto, pratica primordiale del commercio, è tornato prepotentemente di moda ed è diventato anche un fenomeno di costume con gli swap party, alla lettera festa del baratto. Appuntamenti tra amici e nonni, in casa o in un locale, per scambiarsi abiti, accessori, libri, oggetti di ogni tipo. Per liberare armadi e soffitte da abiti nuovi mai usati e oggetti frutto di acquisti sbagliati. Basti pensare che secondo una recente statistica oltre 35 milioni di italiani non indossano più un quinto del proprio guardaroba. Negli swap party nulla è in vendita, tutto si scambia, all'insegna del guilt free shopping, lo shopping senza sensi di colpa. Rigida organizzazione, tutti gli oggetti vengono classificati per fasce di valore, lo swapping è anche online, ma dal vivo è più efficace e divertente. Tra i primi ad organizzare in Italia gli swap party, Atelier del Riciclo, che a Milano ha inaugurato la prima boutique del baratto. Il direttore creativo, Grazia Pallagrosi. All'inizio era una cosa sconosciuta, nessuno in Italia, quando ne abbiamo iniziato a farlo, sapeva di cosa si trattasse. Adesso invece è diventato un fenomeno di costume, per cui c'è stata una crescita esponenziale sia come notorietà che a livello di partecipazione. Anche perché il nostro obiettivo era quello di sganciare il baratto dal concetto di rinuncia e di impoverimento e agganciarlo invece alla sensazione di eleganza e di glamour, e su quest'onda, diciamo, sempre più persone si sono dimostrate interessate. Noi siamo abituati a ragionare in termini di target e qui non c'è più, nel senso che vengono ragazze di 20 anni che hanno un potere di spesa limitato perché sono comunque universitari, non hanno ancora un lavoro, vengono le signore della Milano Bene, cinquantenni con l'armadio pieno di abiti costosissimi e griffati, e vengono le signore di 70 anni col marito e si provano le cose, fanno una specie di passerella, tra l'altro tenera e divertentissima. Un'atmosfera di condivisione, perché lo scambio porta inevitabilmente a condividere non solo le cose, ma anche le emozioni, l'allegria, gli interessi. Per cui le persone si ritrovano, magari fanno amicizia, si scambiano un numero di telefono, si vedono anche fuori dall'atelier. È molto bello questo aspetto della socializzazione al quale noi teniamo moltissimo. Per Marina Martorana, autrice di I Love Swapping, il fenomeno segna un vero e proprio rifiuto etico al consumismo. È una pratica che non si può neanche definire economica, è un modo di vivere. Credo che negli ultimi anni siano venuti un po' a mancare dei valori nella nostra società, sopraffatti da tanti altri aspetti, quali appunto la corsa al denaro, al potere, insomma c'è comunque situazioni che non hanno nulla a che vedere con l'uomo e con l'umanità. Di conseguenza il baratto sia anche un modo per ritornare un po' a se stessi e uomini, insomma esseri umani. Se fosse solo una questione di soldi, ai vari swap party o alle situazioni dove si baratta ci sarebbero solo le persone meno abbienti. Invece è un fenomeno che, come in America è partito dai piani alti di Manhattan, anche in Italia piace e tocca di più, diciamo, le persone che non hanno proprio delle necessità mostruose nell'arrivare a fine mese. Quindi penso sia più uno stile di vita, un modo di vivere sentendosi tutti più vicini, che un modo per risparmiare. Benché di fatto è ovvio che si risparmi parecchio, anzi non si tirano proprio fuori soldi. Al di là degli swap party, il fenomeno del baratto si sta estendendo a molti altri settori, primo fra tutti il turismo, con la pratica in forte crescita dello scambio casa per le vacanze. E a Mestre c'è un bar, si chiama Bar Atto, dove si può pagare un cappuccino con un libro oppure una sedia, un giocattolo. Riciclare e scambiare sono diventate esigenze esistenziali, ci dice il proprietario Stefano Pesce. Siamo riusciti appunto attraverso lo scambio con consumazioni ad avere tavoli, sedie e soprattutto tantissimi libri e giocattoli, per cui arredare totalmente un bar attraverso lo scambio e il baratto di cose. Ci siamo trovati anche impreparati, in quanto veramente la gente ha risposto con entusiasmo e ci portava veramente un sacco di cose, probabilmente davvero le soffitte sono piene di cose inutili.